Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. 7 anni fa è rimasto folgorato da un videogame. Nel 2006 ha deciso che doveva a tutti i costi realizzare un film. Oggi lo ha presentato al circuito off di Venezia. Il gioco si chiama Metal Gear Solid e il regista è qui con noi a Nova Lab 24. Benvenuti. Giacomo Talamini è un videomaker che ha un grande sogno: girare un lungometraggio a partire da Metal Gear Solid, un videogioco giapponese. Ha iniziato ad occuparsi di cinema nel 2002. La sua passione amatoriale è diventata una professione. Il suo primo filmato è stato un esperimento del genere splatter, che, secondo Talamini, era un orrore. Ma non si è scoraggiato. Il secondo passo è stato un filmato su Metal Gear della durata di 30 minuti, fino alla scommessa attuale. Un lungometraggio con attori e registi che partecipano volontariamente al progetto. Le attrezzature sono state prese in prestito e per 3 anni il team ha immaginato le scene, deciso i ruoli, provato le inquadrature. Non sarà in vendita, ma le persone potranno scaricarlo da internet. Luca Tremolada al microfono, Luca Dello Jacopo che si è imparato, mi ha promesso che si è imparato tutto su videogame e mondi virtuali, che ha realizzato la scheda, e qui davanti a me in studio Giacomo Talamini, che mi ha appena spiegato che è stata un'impresa titanica portare a casa questo lungometraggio. Buongiorno a tutti, sì, decisamente lo è stato, vista le condizioni di produzione. Ecco, come è iniziato tutto? Perché è iniziato in un appartamento, mi hai raccontato, di 3 persone che poi sono diventate 150. Beh, non dentro l'appartamento 150, diciamo che sono rimaste le 3 persone, 4 in realtà, all'interno dell'appartamento, che tramite internet hanno gestito una squadra di, sì, direi che sono arrivato ormai a 150. Non ho un censimento completo, ma i numeri sono circa quelli. Ecco, diciamo la cosa principale: il lungometraggio è senza fini di lucro. Certamente, è un lungometraggio no profit. Si scarica direttamente da internet. Esatto, gratis dal nostro sito, anche perché difficilmente avremmo potuto fare in modo diverso, essendo una proprietà intellettuale non nostra. Ecco, perché il gioco di Metal Gear Solid? Perché, diciamolo subito, è un gioco un po' diverso dagli altri. Non è Pac-Man, che è la colonna sonora, insomma, che ha un po' annunciato la tua biografia. Beh sì, è un gioco decisamente diverso, anche perché è uno delle serie narrativamente più ambiziose che esistono oggi al mondo. È stato un gioco che mi ha molto affascinato, ha affascinato me e il mio amico Gianluca, con cui ho iniziato questa avventura, e abbiamo deciso di usarlo come un terreno di prova per imparare da soli come fare cinema dal basso, in un certo senso. E come avete trovato i collaboratori? Appunto, quella è stata una grande cosa dal cui punto di vista. Avere un brand come Metal Gear ci ha aiutato. Avere un nome noto attorno al quale raccogliere la propria squadra ti permette di essere più visibile rispetto a un'opera originale che deve imporre la propria identità. E ci ha permesso di raccogliere una squadra molto grande, inizialmente di fan di Metal Gear. Un po' alla volta, man mano che il progetto dimostrava le sue qualità, anche appassionati di videomaking e di computer grafica in senso lato. È una squadra diffusa nel mondo, diciamo. Sì, tutto l'audio è stato fatto tra Inghilterra, Stati Uniti e Norvegia, e abbiamo avuto la collaborazione anche dell'autrice originale della musica di Metal Gear Solid. Ecco, sentiamone un piccolissimo estratto. Mi spiegavi che sono musiche originali queste? Certo. Per cui c'è un autore dietro, c'è un musicista, chi sono? Chi è che ha composto le musiche? Il nostro musicista si chiama Daniel James, è un ragazzo di 24 anni che abita a Hastings in Inghilterra e come noi svolge il proprio lavoro principalmente su internet, trovando clienti, produzioni, videogiochi per i quali compone le musiche. Ci siamo conosciuti grazie al lancio del nostro primo trailer. Vedendo il trailer ha visto che la qualità del progetto era superiore a quella di un fan film tradizionale, cioè normale, e ci ha chiesto di collaborare, ha chiesto se poteva essere utile al progetto e come sempre abbiamo detto sì. Ecco, tra l'altro Luca, non è la prima volta che un film prende spunto dai videogiochi, diciamo che negli ultimi 5 o 6 anni ne abbiamo viste un po' di tutti i colori, sia nel bene che nel male. Anzi, ti rilancio una provocazione, immagina se scomparisse Hollywood... perché a partire da Doom, e gli appassionati certamente lo ricorderanno, le persone hanno iniziato a registrare le loro azioni nel videogioco e quindi hanno iniziato a produrre dei brevi filmati. Questi brevi filmati sono diventati cinema, sono diventati un genere che è famoso come machinima. Pian piano il confine, ecco, tra cinema e videogioco, tra macchina da presa e console si è andato ad affievolire, tanto che oggi siamo arrivati anche a produzioni come quella di Avatar di James Cameron, che è il quarto film più costoso della storia. Ci sono storie come Halo 3 che sono ispirate al videogioco e che sono diventati dei brevi filmati. Sono stati prodotti però anche dei flop, delle cose di cui preferiremmo dimenticarci, come Enter the Matrix, il videogioco ispirato a Matrix, o anche come il film di Super Mario Bros. Sì, era tremendo, era assolutamente tremendo. 824-0024 per chiamare in studio. Tra l'altro ricordo che oggi la puntata va in onda in forma ridotta per lo speciale che partirà alle 16.30 dedicato a Mike Buongiorno. Ecco, ma torniamo un attimo a Bomba, perché prima mi hai parlato di film realizzati con i videogiochi, e infatti noi abbiamo in collegamento Roberta Cirillo, che a differenza di Giacomo Talamini non aveva amici o attori in carne ed ossa, per cui da un certo punto di vista se li è inventati, ecco. Buongiorno Roberta. Salve a tutti, buon pomeriggio. Adesso sentiamo un attimo chi sei. Regista, montatrice, autrice di animazioni tridimensionali e una straordinaria passione per i machinima, fusione tra cinema e videogiochi. Così Roberta Cirillo ha progettato gli studi di Cinecittà nel mondo virtuale di Second Life. Ma la Cinecittà che vedrete su internet non è quella contemporanea. Sono gli studios dell'epoca di Federico Fellini e nei set recitano gli avatar, i corpi digitali delle persone. È stato un percorso ispirato dal mondo dell'arte, quello di Roberta Cirillo, classe 1974, laurea al DAMS, corso di cinematografia a Cinecittà, master alla Sapienza. Esperienze che ha unito nell'arte di costruire ambienti per Second Life, dove giocare, lavorare e divertirsi. Ecco Roberta, tu hai fatto un po' il passaggio opposto rispetto a Giacomo Talamini, ma com'è lavorare con dei personaggi che sono digitali? Cioè è il massimo, è come per un pittore partire completamente da zero, non hai neanche bisogno di riprendere gli attori. Sì, si parte dall'immagine che si visualizza nella propria mente, si dà una forma, a proprio gusto, secondo le proprie necessità. Se ti danno una sceneggiatura in cui c'è una persona anziana di 80 anni piuttosto che recentemente ho fatto il bambino Gesù o in Second Life o comunque anche in altre piattaforme virtuali, i mondi virtuali stanno adesso nascendo uno dietro l'altro, è possibile crearli e animarli. Ecco Roberto, dov'è che si impara? Cioè hai un sito da darci, un qualche indirizzo per capire come un giovane regista può cominciare a manipolare la materia digitale per dare forma a un suo sogno, una sua idea? Beh, io ne parlo diffusamente anche nel mio sito, che è www.robertacirillo.com, proprio spiego le tecniche che vengono utilizzate, nonché anche racconto del mio percorso del dottorato di ricerca alla Sapienza proprio in ambiente virtuale, e quindi insomma sapendo come, che tipo di ricerche ho fatto io partendo da zero ma con una grande passione e interesse, posso immaginare un giovane che forse nelle mie parole anche molto diciamo semplici e immediate potrebbero essere aiutati. Ecco, ma tu perché sei arrivata a realizzare film con Avatar sostanzialmente? ci sono arrivata proprio dopo quello che ho citato prima, un percorso a livello professionale molto molto difficile, che era quello di studiare le tecniche della grafica animazione 3D professionale con l'uso per esempio del motion capture o di Maya, che sono le tecniche con cui è stato realizzato, per dire, Polar Express di Robert Zemeckis, piuttosto che Il Signore degli Anelli, no? Dopo aver studiato, analizzato e creato dei video in anni, 5 minuti di video ci vogliono degli anni a farli così, soprattutto quando in Italia, che magari si è in pochi a studiare queste cose. Dopo aver finito questo percorso, comunque portato a conclusione con la tesi, scopro che esistono le piattaforme virtuali nel 2007 come Second Life, dove tutto questo si può essere realizzato in immediato, con semplicità e immediatezza. E magari per un video di 5 minuti non ci vorranno sicuramente degli anni, ma pochi giorni. Sicuramente le capacità grafiche attuali non arrivano a quelle dell'animazione professionale, ma tutto, l'immaginazione, la fantasia, i virtuosismi registici che noi creativi abbiamo nella mente, abbiamo voglia di realizzare, possono trovare una forma, e quindi ogni storia che si ha in mente, ogni volo dell'immaginazione si può realizzare anche con poco, e questo secondo me è un passo. Che storie si raccontano oggi sui Second Life, su questi, ricordiamolo, questi mondi virtuali dove fondamentalmente hanno una grafica simile ai videogame e li si possono manovrare attraverso la tastiera. Che storie tu a quantomeno hai raccontato finora? Che tipo di storie? Storie soprattutto di carattere sociale, di utilità sociale, perché bisogna sempre ricordare che questo tipo di messaggi arrivano soprattutto ai giovani, sono soprattutto i giovani che utilizzano i social network e anche i game online come Second Life. E quindi, dopo analizzando tante possibilità, si è deciso di raccontare storie, per esempio, che dessero maggiore consapevolezza alle giovani sull'uso degli anticoncezionali, piuttosto che importanti informazioni per la ricerca contro il tumore al seno. Insomma, abbiamo sempre comunque orientato la preferenza, a parte su soggetti fantastici, divertenti, diciamo più ad uso YouTube, però per le grandi diffusioni, come è successo per esempio la presentazione alla presidenza del Consiglio, è stato presentato il lungometraggio, quello girato in Machinima, in Second Life esattamente, per la lotta contro il tumore al seno. Ecco, tra l'altro mi raccontavi anche che tu hai creato una sorta di cinecittà, una sorta di cinecittà dove poter ambientare i propri film. Sì, esatto, e beh, questo è molto utile perché... Puoi dare anche l'indirizzo? L'indirizzo della cinecittà virtuale? Sì. Cioè, per entrare in Second Life basta, una volta entrati in Second Life, basta andare nel campo di ricerca, un po' come Google Second Life, si va nel campo di ricerca, si mette la parola Cinecittà e si troverà il link per andare nella mia land. Perfetto. Mentre per capirne di più, per scoprirla meglio, mi racconto sempre nel mio sito, che è www.robertacirillo.com. Ecco, ci serviva questo. Luca, sì. Dimmi. E dirigere un cast su Second Life com'è? È una delle cose più divertenti che mi sia capitata, nonostante io abbia fatto tanti corti, lungometraggi, spot pubblicitari nel reale con gli attori veri per anni, per una decina d'anni. Dopodiché mi è capitato la prima volta, devo dire con un minimo di scetticismo da parte mia, ho affrontato il fatto di gestire sul set in diretta degli attori, delle persone che magari neanche conoscevo, che stavano magari dall'altra parte del mondo e manovravano il loro avatar sul set. Devo dire, molto divertente, molto complicato, perché potete immaginare che comunque non è così semplice. Ecco, invece, dare dei comandi a persone che ti ascoltano dall'altra parte del mondo. Tutto però in inglese? È molto, molto entusiasmante. Tutto in inglese, chiede? A volte anche in inglese, sì, anche perché Second Life un po' puoi scrivere nella chat per esprimerti, per dialogare con gli altri, un po' puoi anche parlare usando il voice, un po' il meccanismo di Skype, in cui la tua voce viene ascoltata in diretta da tutti, gratuitamente, basta, cioè, la linea ADSL, e quindi sì, mi capita di dover parlare in inglese. Ecco, invece Roberto Talamini doveva dirigere, Giacomo Talamini doveva dirigere sostanzialmente degli amici, però non mi sembra che sia andata molto... Non sia stato semplice neanche per lui. No, non è stato semplice essenzialmente perché si trattava di coordinare il tempo libero di 50 persone che venivano sul set, e trovare un giorno alla settimana in cui 50 persone possono essere libere per il tutto per 2 anni di lavoro non è per niente semplice. Tra l'altro, l'altro aspetto è che voi dovrete trovare, parliamo che Metal Gear Solid racconta la storia di un soldato sostanzialmente, quindi parliamo di un film d'azione. Non è neanche facile trovare un'ambientazione a un film di questo tipo. Voi dove vi siete avete deciso di girare? Beh, abbiamo fatto il processo che spesso si fa con il filmmaking indipendente. Non si deve partire dalla sceneggiatura o dall'idea e poi cercare ciò che di reale sia compatibile con quell'idea. Bisogna prendere ciò che si ha e sviluppare un'idea a partire da quello che si trova. Noi avevamo delle location interessanti per via delle molte acropoli industriali che ci sono nella zona del veneziano, quindi per ambientazioni belliche erano ideali. E in più abbiamo inserito ambientazioni naturali di ogni genere, naturalmente, sia perché non servono i permessi per andarci, sia perché c'erano utili a livello narrativo, insomma. Ecco, invece, gli attori quanti sono? Gli attori principali sono 5-6, e dopodiché invece c'è una moltitudine di comparse che sono venute gratuitamente da ogni angolo d'Italia per partecipare alle scene più popolose. Ecco, adesso mi dicevi che il film è concluso sostanzialmente, però prende lo spunto da un episodio specifico della serie di Metal Gear, che è il secondo. Beh, diciamo a livello narrativo sì. In realtà parte dal primo Metal Gear Solid e prende una tangente narrativa completamente autonoma. Ci serviva sia per dare una sua unicità al nostro progetto, sia per evitare che i successivi episodi di Metal Gear lo rendessero obsoleto non appena uscivano. Quindi, mentre a livello narrativo sì, ci speriamo molto al secondo Metal Gear Solid per via delle particolari tematiche che trattava. Ecco, credi che questo è un punto che a Nova trattiamo abbastanza spesso, cioè i videogiochi anche come della sorta degli attaccapanni, nel senso che fino a poco tempo fa i nostri ricordi li volevamo appenderli o li appendavamo direttamente a un disco, a una canzone, anche a un video, diciamo, negli anni Ottanta. Oggi c'è una generazione di persone che hanno giocato, che hanno camminato attraverso il mondo dei videogiochi, che quantomeno lega dei pezzi della propria vita a un certo titolo, a una certa storia. Questo tipo di film, non sono io a dirlo, da un certo punto di vista fa emergere il videogioco come un media a tutti gli effetti. Beh, sì, il videogioco ha una sua identità ormai da parecchi anni. Se pensiamo alle avventure grafiche della Lucas piuttosto che videogiochi come Silent Hill, come Bioshock, come Metal Gear Solid, ormai hanno una propria dignità culturale proprio. Ma il fenomeno all'estero è ben conosciuto. In Italia abbiamo un certo ritardo da questo punto di vista. Vediamo ancora il videogioco come qualcosa di nuovo, di pericoloso. Che però magari i fan stanno facendo molto anche dal punto di vista della produzione, come ci stai raccontando tu, per dare per diciamo costruire poi le storie, cioè non sono più storie che vengono dall'esterno, ma sono storie che state costruendo voi e che in un certo senso quindi cambiano anche un po' da un lato appunto il cinema, come pensavo provocatoriamente prima, ma dall'altro poi anche il vostro rapporto con il videogioco. Sì, beh, questa è una fortuna che il videogioco ha, perché sta avvenendo in contemporanea all'era di internet, del web 2.0. Cioè un'epoca in cui con 5.000 euro puoi veramente pensare di fare un film di fantascienza di 70 minuti mettendo robot che fanno esplodere palazzi. Se pensiamo a 10 anni fa era una cosa totalmente impossibile. E, anzi, dico spesso che il nostro film sarebbe stato impossibile anche solo 4-5 anni fa, perché io 4-5 anni fa affrontavo il problema di dove effettuare l'upload del mio primo progetto, in quanto il nostro sito era stato sommerso di richieste ed era crollato per 2 settimane e siamo rimasti privi di visibilità su internet. Adesso ci sono una quantità di servizi come YouTube HD, Vimeo e un'altra serie di portali che ti permettono di fare un broadcasting di materiale anche lungo, anche ad alta risoluzione. L'altro giorno appavo un mio nuovo trailer su YouTube HD e mi meravigliavo della qualità che aveva e del fatto che puoi ormai mettere su film di intere ore. Puoi ricordare dove troviamo il film, che non l'abbiamo detto fino adesso, che non è un'informazione di poco conto? Il film si trova su www.mgs-altofilantropi.net. Trattino alto qual è? Nella tastiera. A metterti in difficoltà subito. Te lo so effettuare gestualmente, ma mi è difficile localizzare. Diciamo che non è il trattino basso. È il trattino basso, esatto. E si scarica tranquillamente. Esatto, si scarica a partire dal 27 settembre, è la data di lancio ufficiale che ormai abbiamo deciso. di mandare. Poi cosa vi aspettate? Una volta appoggiato su internet questo film, vi aspettate che altri fan realizzeranno dei film magari su altre serie? Prima citavi Silent Hill. Silent Hill, ricordo, era un gioco horror, un gioco di paura sostanzialmente. Oppure credete che c'è un genere che può emergere rispetto agli altri? Ma in realtà ci sono già moltissimi fan film su Metal Gear Solid. Il nostro ha solo la fortuna di essere quello più testardo, nel senso, perché siamo quelli che ci hanno impegnato più tempo e più risorse. Io sono abbastanza sicuro che nel giro di 12 mesi qualcuno ci farà fare una brutta figura facendo uno molto migliore del nostro, ma internet funziona così. Anche, è anche la parte bella, cioè certo, che fondamentalmente certo. Lo scontro è alla pari da questo punto di vista. Per esempio c'è un altro fan film italiano basato su Guerre Stellari, Dark Resurrection, che è uscito nel 2006, che noi ci apprestiamo probabilmente a superare a livello tecnico, ma del quale stanno già sviluppando il 2, che a giudicare dalle prime immagini che stanno diffondendo è molto superiore a Philanthropy. Quindi avremo un'altra sfida che va rilanciata, insomma. Io ringrazio Giacomo Talamini, ringrazio anche Roberta Cirillo che è restata con noi in linea. Ricordo che questa puntata esce in forma ridotta, possiamo dire, per lo speciale. Lo speciale, tra l'altro, su Mike Buongiorno, che parte subito insieme alle notizie di borsa. Un saluto e a domani.